Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di immigrati, parliamo di immigrazione, parliamo della realtà italiana di fronte a questa prospettiva, ma parliamo soprattutto di come gli immigrati vivono la realtà italiana. E lo facciamo con Jacopo Storni. Buonasera Storni. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Jacopo Storni, giornalista, ha scritto un libro, L'Italia siamo noi, storie di immigrati di successo. È un libro che raccoglie numerose interviste, numerosi racconti di persone che hanno trovato appunto in Italia una loro collocazione. Si tratta di persone diverse, venute da luoghi diversi. Com'è nato questo libro, Jacopo Storni? Ma è nato semplicemente da una frustrazione, se così possiamo chiamarla, da una stanchezza giornalistica, cioè quella di vedere rappresentati sui giornali, ma anche in politica, gli immigrati sempre dello stesso modo, quindi immigrati come profughi, immigrati come straccioni, immigrati delinquenti o presunti terroristi, immigrati come schiavi o come badanti. Io nel mio piccolo ho tentato di rovesciare un po' lo stereotipo dell'immigrato straccione parlando degli altri immigrati, quelli di cui quasi nessuno parla, e cioè gli immigrati di successo. Molti mi hanno chiesto: ma come hai fatto a trovare così tante storie? Sono 14 le storie del mio libro. In realtà la cosa difficile non è stato trovarle, ma è stato selezionarle dalla grande quantità di storie che ho trovato, perché gli immigrati di successo in Italia sono tantissimi. In questo libro ne vediamo scorrere 14, che sono soltanto una minima parte, e sono imprenditori, ingegneri, avvocati, finanzieri, architetti, costruttori, designer, poliziotti di colore, soldati di colore. Insomma, ce n'è veramente di tutti i colori, scusate il gioco di parole, ma è realmente così. Gli immigrati non sono soltanto operai, badanti, poveracci e delinquenti, ma sono anche persone che tengono in piedi una parte del PIL dell'Italia. Basti pensare che sono il 9% in termini di popolazione e il 10% in termini di PIL, quindi ci danno un grande aiuto, e questi immigrati che descrivo in questo libro, che in realtà è un libro di viaggio attraverso l'Italia dal nord a sud tra 14 immigrati e immigrati di successo, dice proprio questo, dice quanto loro sono importanti alla nostra economia. Molti di questi, tanto per fare un esempio, hanno assunti anche molti italiani nelle loro aziende. Ecco, sono anche molti imprenditori immigrati, imprenditori anche nel settore del commercio, nel settore anche industriale, soprattutto che hanno realizzato delle attività particolarmente importanti. E quello che dici anche nell'introduzione è che l'Italia è ormai una realtà multiculturale, ma questo si vede anche nell'accettazione, nel fatto che non ci sono problemi nell'avere appunto dei rapporti di lavoro, anche di subordinazione con questi immigrati di successo. Sì, sta diventando una realtà sempre più frequente. Io, girando l'Italia, intervistando queste persone, mi sono accorto che spesso appunto gli immigrati non rubano il lavoro, no? Questo luogo comune o questo pregiudizio che va molto di tendenza nella nostra politica, in realtà creano posti di lavoro, e tra questi posti di lavoro ci sono molti italiani. Gli esempi sono tantissimi. C'è Nelu, l'imprenditore edile che lavorava fino a 10 anni fa nei cantieri edili con i caporali come schiavo, veniva pagato 3 euro l'ora e veniva minacciato addirittura con la pistola alla tempia, perché lui era andato timidamente a chiedere soldi al caporale dopo 5 mesi di stipendi arretrati. E oggi lui è una grande impresa edile dove ha assunto anche molti italiani. Oppure Marco Lishuang, chiamato Marco in onore di Marco Polo, che è il primo, diciamo, importante ristoratore cinese wok sushi, con cucina all'aperto, quindi alla vista dei clienti del ristorante, che ha 4-5 ristoranti in Veneto, molti dei quali con 1000 coperti, quindi ristoranti enormi, bellissimi, che ha assunto in uno di questi ristoranti 10 camerieri italiani. Molti di questi imprenditori, in realtà, anche se hanno assunto italiani, e questo gliene va dato atto, dicono però che, questo è un fatto di cronaca che non possiamo tralasciare, dicono che in realtà gli italiani hanno meno voglia di lavorare rispetto ai loro concittadini, in questo caso cinesi oppure rumeni nel caso dell'imprenditore edile di cui parlavamo prima. Dicono che sono più propensi alla fatica, più propensi al sacrificio, più propensi alla rinuncia, i dipendenti immigrati rispetto ai nostri italiani. Questo è anche il motivo per cui molti nostri italiani rifiutano i lavori che invece molti immigrati sono più disposti a fare. Ecco, l'introduzione a questo libro è scritta da Otto Bigioca. Chi è? Otto Bigioca è un camerunense, un finanziere camerunense, consulente aziendale di alcune importanti aziende italiane, anche di istituzioni governative non africane. È stato presidente della prima banca per stranieri in Italia, adesso non lo è più, e lui all'inizio del capitolo, il capitolo dedicato a lui inizia con una provocazione che in realtà è un suo sogno. Lui mi dice: voglio diventare sindaco di Milano. Lui dice: l'Italia è pronta ad un sindaco nero? Credo proprio di no. E poi fa l'esempio anche di come l'Italia in realtà sia indietro rispetto al resto d'Europa, dove il sindaco di Rotterdam è un marocchino, il sindaco di un paesino in Irlanda è un nigeriano. Insomma, lui dice: o si cambia in Italia o non arriveremo da nessuna parte. Lui poi fa una provocazione che è veramente una provocazione. Dice ad esempio: a Milano il 20% della popolazione è immigrata, allora perché non mettiamo il 20% di consiglieri immigrati in consiglio comunale? Dovremmo fare così, altrimenti tutto il resto sono chiacchiere. Lui è un provocatore nato, però molte delle sue teorie sono teorie molto interessanti, che vanno prese per provocazioni, ma vanno prese anche per spunti, per ragionare sul tema immigrazione con una prospettiva diversa, appunto, che non è quella dell'immigrato in quanto profugo e straccione, ma è dell'immigrato che è parte integrante dell'Italia, neanche multiculturale, ma dell'Italia meticcia. Certo. Insomma, abbiamo visto negli ultimi giorni gli europei di calcio, in cui ci sono 4 giocatori di origine straniera nell'Italia, dove un terzo dei giocatori di tutto il campionato europeo è di origine straniera. Se nel calcio non fa scandalo, credo che in un futuro, spero più vicino possibile, non faccia scandalo neppure nella società avere una percentuale così alta di italiani, ed avere un'Italia sempre più multiculturale, ma preferisco definire un'Italia meticcia. Basta considerare che nei nostri banchi di scuola già siedono quasi 1 milione di studenti nati da immigrati. Ecco, considerare questo problema, quello dell'immigrazione, non tanto e non solo come un problema, che indubbiamente è un problema, ma anche come una risorsa, e questo il richiamo appunto della prefazione di Otto Bigioca e un po' di tutte queste storie. Otto Bigioca dice: è ora di considerare i nuovi italiani il vero bacino in cui scoprire talenti e eccellenze per rilanciare il paese. Il merito non ha né colore né razza, è la forma più efficace di integrare i popoli. Ecco, tu come giornalista, vivendo appunto nella realtà quotidiana, comunque i problemi di integrazione, i problemi di accoglienza ci sono. I problemi esistono e non possiamo nasconderli assolutamente. Gli immigrati, è vero che possono costituire un problema, gli sbarchi ci sono, però potrebbero essere trasformati in una risorsa anche quelli che arrivano e che non sono di successo, come questo libro. Dovrebbe cambiare il sistema di accoglienza e di successiva integrazione, a mio modesto modo di vedere, e nel libro, nella parte conclusiva in cui trago un po' le conclusioni e cerco di tracciare anche quello che è il futuro che ci aspetta. Dovrebbe cambiare il sistema di accoglienza, che in Italia è quasi puramente assistenzialista. In Germania ad esempio non è così. In Germania, pochi mesi dopo lo sbarco, il profugo impara il tedesco, il profugo comincia a avere i propri corsi di formazione professionale e comincia una via verso l'autonomia lavorativa. In Italia sono invece pochissimi gli immigrati che riescono ad avere un'indipendenza lavorativa, sono circa un 10% quelli che riescono a lavorare, ma non è colpa loro, perché io ho girato molti centri di accoglienza facendo il mestiere di cronista, e tutti gli immigrati che li vedo bighellonare nei corridoi dei centri di accoglienza non stanno lì a bighellonare volentieri, ma mi dicono: noi vogliamo lavorare. Ma non hanno queste possibilità semplicemente per 2 motivi principali. Il primo è perché molte delle cooperative che gestiscono l'accoglienza niente hanno a che vedere con l'integrazione e l'immigrazione, perché spesso le cooperative che fanno accoglienza addirittura sono cooperative o società di falegnameria oppure imprese di pulizie. Non è uno scherzo, ma è la verità. oppure perché i tempi per le risposte alle domande degli immigrati sono biblici. I tempi della giustizia italiana in questo senso sono biblici, spesso ci vogliono addirittura 2, se non 3 anni per rispondere alle domande di asilo dei richiedenti asilo. In questo tempo i migranti sono semplicemente dei fantasmi che vagano in questo limbo e che non possono fare molto, perché nessun datore di lavoro ovviamente è disposto ad assumere o a prendersi in carico un immigrato che magari fra 2 mesi o fra 1 anno potrebbe essere espulso perché la sua domanda d'asilo non viene accolta. Quindi se cambiasse il sistema di assistenzialismo, e non lo dico per buonismo nei loro confronti, sì, lo dico anche per questo, perché il concetto di umanità è molto importante, ma lo dico anche per utilitarismo nei confronti della popolazione italiana, ecco, se cambiasse questo sistema di assistenzialismo e diventasse meno assistenziale ma più integrativo, più interattivo, sicuramente questi immigrati che arrivano con i barconi e che fisiologicamente continueranno ad arrivare anche nei prossimi decenni potrebbero diventare davvero una risorsa molto molto preziosa. Ecco, anche loro hanno di fronte, quando arrivano, il problema della burocrazia italiana, che è uno dei problemi di questo paese, uno dei problemi che frenano anche la capacità di cambiare un po' le cose, di avviarci verso una società diversa, una società più accogliente. E il tempo purtroppo è volato, grazie Jacopo Storni, grazie anche di questo libro, di queste storie di immigrati. Ricordo, Jacopo Storni, giornalista, ha scritto il libro L'Italia siamo noi, storie di immigrati di successo, edito da Castelvecchi, a 142 pagine, costa 14,50 euro. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora e buona serata.